Eccoli. Di nuovo in onda, in diretta. Da Mondeggi, sempre. Non ci muoviamo. Non ci siamo mossi proprio. Allora, torniamo più vicini. Abbiamo fatto un viaggetto in Val di Susa a sentire i compagni, le loro azioni, e torniamo su territori più vicini. In particolare parliamo proprio della Toscana, a sud della Toscana, quasi al confine con il Lazio, anzi al confine con il Lazio, e abbiamo qua Sante. Buonasera. Buonasera a tutte e a tutti. Buonasera, che ci parla in quanto membro del comitato Maremma Attiva. Sì, innanzitutto ringraziamo l'ospitalità di Radio Wombat, neonata, no? Da poco. Un anno. Ok, perfetto. Insomma, per noi è un piacere essere ospiti vostri, essere ospiti qua a Mondeggi di questa due giorni. Ci interessava molto anche partecipare per raccontare un po' la nostra storia, la nostra esperienza, per conoscere e condividerne con altri, insomma, altrettanti compagni e compagni, e anche di altri comitati di lotta e difesa per il territorio che sono qua presenti, come appunto citavi prima. L'esempio della Val di Susa. Sì, sì. Esatto, voi appunto nella lotta al territorio, nello specifico, vi occupate? Allora, diciamo che il comitato nasce come comitato di difesa del territorio su tematiche ambientali, insomma, di un certo tipo, anche abbastanza allargato, però nasce in relazione a una serie di minacce, di speculazioni che sono state fatte sul nostro territorio per quanto riguarda l'installazione di centrali geotermiche nella zona di Pitigliano, Sorano, Alta Tuscia, provincia di Grosseto, insomma, alle pendici del Monte Amiata. Sì. È una storia che... Sì, è una zona famosa per le terme, appunto per questo... È una storia molto lunga, quella che proverò un attimo a sintetizzarvi. È una storia molto toscana anche, quindi insomma ci fa piacere anche parlarne qua, proprio perché non tutte e tutti, insomma, conoscono anche in questa regione la problematica derivata dall'utilizzo sbagliato o comunque speculativo di questo tipo di energia. La geotermia nasce proprio in Toscana. Nasce in Toscana, nel senso nasce... Che vuol dire nasce? Cioè... Colui che ha inventato lo sfruttamento della risorsa geotermica, quindi per chi non la conosce, lo sfruttamento del calore sotterraneo, insomma, del calore che c'è nella terra, sottoterra, ha comunque distanze di un certo tipo, nasce proprio in Toscana, nasce a Larderello, in provincia di Pisa, a fine 800, i primi studi su questo. Il 90% della produzione geotermica, l'85% della produzione geotermica mondiale viene dalla Toscana. Pensate. Quanto, scusa? 85%. Boia. Sì, è una questione che si conosce poco, anche perché comunque la realizzazione di questi impianti, di queste centrali, riguardano soprattutto gli ultimi 30 anni nella zona di Toscana. Larderello, proprio dove viene inventato qua, è una zona della Val di Cecina, insomma, per chi la conosce. Facciamo un attimo un piccolo viaggio, certo, in Toscana per arrivare Volterrano, per intendersi. Volterrano, appunto, Volterrano. Per intendersi, dove c'è un deserto adesso. In quel posto c'è il deserto, a Larderello, dove sono state costruite le prime centrali geotermiche, c'è un deserto sia naturale che sociale. I paesi sono stati spopolati, non esiste più alcun tipo di sviluppo del territorio sostenibile, turistico, commerciale o quello che sia, e rispettoso dell'ambiente e della natura, appunto, del territorio, ma ci troviamo di fronte a questa situazione. Vi spiego brevemente di che, esatto, si tratta, conseguenza... perché non è facile, non è anche automatico. Anche perché ricordiamoci che noi facciamo parte, insomma, siamo un po' in controtendenza rispetto, diciamo, al mainstream, ovvero siamo una serie di comitati, perché sono diversi, anche all'Arderello ci sono dei comitati, che comunque si oppongono a una serie di progetti che vengono ritenuti positivi e virtuosi, e la geotermia è considerata all'oggi un'energia rinnovabile. Quindi insomma siamo anche in contraddizione con il mainstream e il capitalismo verde di questi anni. Allora, dunque, l'energia geotermica sfrutta il calore della terra fondamentalmente, ovvero in certi punti del pianeta, in certi punti, insomma, della nostra penisola soprattutto, ma anche, insomma, di altre parti d'Europa e non solo, anche in Sud America è molto presente, esistono dei fluidi geotermici, dei fluidi magmatici, parliamo soprattutto di territori ex vulcanici, prendiamo come esempio il lago di Bolsena, il Monte Amiata, noi siamo nella zona del Monte Amiata. In questi territori vengono fatte delle trivellazioni a delle profondità altissime, parliamo anche di 500-600 metri, e vengono fatte queste trivellazioni dove viene toccato questo fluido geotermico. Il raffreddamento di questo fluido geotermico fondamentalmente provoca, emette dei vapori. Questi vapori vengono condensati, azionano delle pale che fondamentalmente producono energia elettrica. Questo, diciamo, in soldoni, ovviamente è molto più complicata la cosa, però in soldoni è quello che succede. Ora, qual è il risultato? Qual è il risultato di tutto questo? Innanzitutto queste centrali sono estremamente speculative, ovvero a pari di un danno incredibile per il territorio e per l'ambiente viene prodotta pochissima energia. Che viene utilizzata per? L'energia viene messa in rete. L'energia viene messa in rete attraverso i conti energia o comunque la parte green delle varie multinazionali, e non solo, perché comunque adesso con la liberalizzazione dei servizi ci capiamo che business. Parliamo di cose. Una centrale a media entalpia, come viene chiamata, che vogliono costruire nel nostro territorio, produce 5 megawatt di energia. È pochi centrale Bagno dei 4 nel territorio di Arcidò e Santafiora produce 40 megawatt. Ora, il ragionamento che abbiamo fatto assieme a tutti i cittadini e cittadine, un comitato popolare che nasce come, insomma, totalmente non apolitico assolutamente, ma estremamente eterogeneo, mettiamola così. Aperto, eterogeneo, non istituzionale. Il ragionamento che abbiamo fatto, insomma, e che abbiamo anche noi, insomma, anche noi scoperto come novizi dell'argomento, cioè io ero convinto che la geotermia fosse un valore fino a 5 anni fa, quando sono andato a vivere in quel territorio e ho visto quello che succedeva sul Monte Amiata, ho detto cerchiamo di capire, vedevo i comitati, la gente mi spiegava, abbiamo trovato una situazione veramente devastante. Ora che succede? Allora, innanzitutto è un'energia speculativa. Fondamentalmente, che cos'è un'energia speculativa? Quando anche a livello biecamente capitalistico non ti conviene costruire una centrale per poi riprendere la cosa, cioè il gioco non va e la candela, è speculativo solamente per il fatto che gli incentivi statali, incentivi sul green, sono la fonte da cui attingono tutte queste società, in primis Enel Green Power, che era monopolista del settore, ma adesso comunque è in competizione con tante altre realtà, Sorgenia e anche realtà molto più piccole. Il sostenersi solo sugli incentivi dello Stato fa sì che l'energia diventi speculativa, ovvero mettiamoci nei panni, se ci riusciamo, spero di no, di un capitalista che lavora nel settore, possiamo tranquillamente costruire una centrale geotermica, prendere gli incentivi dello Stato e l'anno dopo chiuderla. Ciao. Cioè, quello è il gioco che ti fa... Quello è il gioco, lasciamo le trivellazioni, lasciamo le problematiche relative al territorio, lasciamo tutte le questioni che tanti comitati che si occupano appunto della questione ambientale hanno comunque sempre ridetto, le promesse di posti di lavoro, le promesse di sviluppo e tutto il resto, lasciamo quello così, lasciamo dell'archeologia industriale nei paesi, nelle campagne soprattutto, perché chi conosce il nostro territorio lo apprezza anche per quanto è bello. Bellissimo. E facciamo questo tipo di gioco. Secondo punto, e probabilmente uno dei punti molto più pericolosi che riguardano questa problematica, le trivellazioni che arrivano fino a centinaia di metri sottoterra non solo vanno a prendere i fluidi geotermici, ma entrano in contatto o comunque smuovono una serie di gas e una serie di risorse minerali che stanno nel territorio di qualsiasi tipo. Allora, vi faccio un esempio. Il Monte Amiata molti di voi lo conosceranno per le miniere. È stato in Toscana, è stato da sempre un bacino minerario, tutti in Amiata erano minatori e quindi tutti vivevano di quello. C'erano le miniere di ferro, le miniere di mercurio, le miniere di carbone. Ora pensate, io parlo del Monte Amiata perché sul Monte Amiata sono già presenti, c'è un piano di centrali che può arrivare a 20 e ne sono già presenti 7 se non mi sbaglio. Pensate a una montagna che viene trivellata, cioè viene bucherellata ovunque, dove c'è anche del mercurio dentro, c'è l'arsenico, i metalli più inquinanti e più nocivi che esistono. Tutti i tipi di metalli pesanti, l'arsenico. Ora, sul Monte Amiata c'è il Fiora, il fiume Fiora, non so, stavo facendo un piccolo viaggio quasi turistico, ecologico per la Toscana, no? Funziona, perché così, funziona. No? E così cerco di essere chiaro. Il fiume Fiora è il fiume sacro della montagna sacra della Amiata, è il fiume, è il bacino idrico più importante del sud della Toscana. L'acquedotto del Fiora, l'azienda che ingiustamente si occupa della gestione di quell'acqua, è l'azienda che rifornisce le province di Siena, Grosseto e Viterbo. Quindi stiamo parlando di un bacino di popolazione enorme. Sì, penso che si aggiri intorno alle 500.000 persone, qualcosa del genere, no? E ora, sappiamo bene come i fiumi, le sorgenti in tutta Italia, insomma in tutti i posti d'Italia, non possono più dissetare tutte le popolazioni, sia per l'aumento della popolazione sia per l'utilizzo smodato dell'acqua anche per quanto riguarda gli impianti industriali. Quindi che succede? C'è un fioccare di falde acquifere ovunque attorno ai bacini. Allora, più noi andiamo a trivellare, più smuoviamo i metalli pesanti, i gas vicino alle falde acquifere, e la conseguenza immediata di questo è fondamentalmente contaminare d'arsenico l'acqua. Arsenico, per poi parlare di antimonio, parlare di piombo, di mercurio, una serie di sostanze velenosissime che hanno fatto sì che un mese sì, un mese no, in tutte le province della Bassa Toscana, dell'Alto Lazio e anche di una parte dell'Umbria, che fa parte sempre di quel quadrante, l'acqua diventi non potabile, inservibile e non potabile. Noi ci siamo posti questa serie di problematiche e abbiamo cercato di allargare lo spettro un po' su tutto, innanzitutto sull'informazione, sull'autoformazione, perché poi a un certo punto, a nostro malgrado, siamo dovuti diventare un po' dei piccoli esperti per quanto riguardava questa questione qua di questa strana energia, no? E poi cercare di valutare tutte le conseguenze. C'è la questione dei terremoti, c'è la questione famosa che si chiama sismicità indotta. Qualsiasi geologo non pagato da una multinazionale in questo momento storico, la prima cosa che dice è che la terra non va toccata, la terra non va toccata né sopra né sotto. Quindi è assolutamente una follia concentrare decine di impianti in territori anche limitati, con una serie di trivellazioni che vanno a centinaia di metri sotto. C'è stato un terremoto a Ischia poco tempo fa, avete sentito il terremoto a Ischia, insomma è stata una cosa. Casualmente sono state anche manipolate alcune delle rilevazioni del terremoto, alcuni dati soprattutto sull'epicentro del terremoto, perché casualmente stavano costruendo degli impianti geotermici anche nella zona dei Campi Flegrei e anche a Ischia, proprio nelle vicinanze, dove appunto già erano state fatte le trivellazioni. Non è complottismo pensare che trivellando a 500 metri di profondità si smuova la terra e si provochi un certo tipo di sismicità. È fisica, è geologia, insomma. In pillole che l'ho capita pure io. Quindi, ecco, fra l'altro io immagino anche che andare a trivellare vicino a delle falde acquifere porti anche a delle conseguenze proprio sulle falde, nel senso che questa è una questione che si è vista anche nei passaggi della TAV, anche in Toscana. Io per esempio frequentando il Mugello mi sono reso conto, ma in modo molto evidente, si vede benissimo che i fiumi che scorrono, si può dire che scorrevano, perché alcuni fiumi sono stati un calo via via, poi adesso allora ti pongo un'altra questione proprio relativa a questo, no? È una questione che oltre alla nostra vertenza ci siamo posti principalmente quest'anno. Quanto tempo è che non piove? No? Oggi si parla qua in questo territorio, ma con una certa regolarità. Allora, la nostra è una zona agricola e c'è anche dell'agricoltura di qualità. C'è anche una serie di persone che sono ritornate nei paesi, a tornare a vivere nei paesi, a praticare agricoltura autogestita, biologica e di un certo tipo, insomma non commerciale a livello neoliberista, mettiamola così. Tutti abbiamo avuto problemi, abbiamo avuto limitazioni quest'anno, l'utilizzo anche di acqua a livello personale. a livello personale, proprio perché c'è stato il divieto di innaffiare l'orti. Insomma, è sotto gli occhi di tutti, comunque è un argomento di uso comune, la siccità, il fatto che comunque piova di meno, ci sia meno acqua, i fiumi si prosciughino. Ora immaginatevi qualsiasi tipo di impianto, e su questo allargo un po' lo spettro: la geotermia, un impianto a biomasse, un inceneritore, impianti che arrivano a produrre attraverso il calore, fondamentalmente attraverso il calore, che sia un fluido geotermico, che sia una combustione come negli impianti termovalorizzatori o quello che dicono, che sia, di quanta acqua hanno bisogno per il raffreddamento? Vabbè. No? Di quanta acqua c'è bisogno per il raffreddamento di questi impianti? Dicelo. Quindi, te, quanta acqua hanno bisogno? Veramente tanta. Io trovo c'è un mare che funziona freddamente, parlando di terribile. Molto so anche del lago Vampia, di chiaramente soffre, quindi entra in cibo. Significa farlo rivivere. Sappiamo bene che cosa significa lo spopolamento dei paesi, delle montagne, della provincia italiana. Insomma, sappiamo bene che sposta che c'è. Stiamo delle miniere, poteva solo lavorare in miniera, aveva dovuto sottostare a questo, e arriva nelle mini mercurio. Chiuse le mini di scappa, sono andate in impianti reali che si sono creati sul Monte Amiata, che sicuramente un'area industriale non è. Dopodiché è arrivata la geotermia. Ora, perché, per quale motivo dico questo? La geotermia non produce assolutamente posti di lavoro, cioè questa è una falsa invenzione che ogni volta portano, le centrali addirittura sono telecomandate da lontano, Bagno dei Quattro, che è probabilmente la centrale più grossa che c'è in Italia, ha 4 dipendenti che penso che si occupino del luogo, 4 dipendenti che si occupano del controllo notturno, sono guardiani fondamentalmente, no? Quindi insomma è una grandissima fandonia. Però il problema e la pericolosità è un monito, un punto che lanciamo, una riflessione che lanciamo anche a tutti, no? Un piccolo allarme è che controllano una grande quantità di soldi, le compensazioni ambientali vengono chiamate, ovvero quando il sociale dovuto anche agli incendi lo vengono pagati dagli anni, poche difficoltà. Per un tema, a parte il monte di letterazione, un buon grido di ramo bisogna, questo il fare leggi. Come faccio le passi a me, nuova annozione, questa cosa da cui sia tutto vestito? Beh, allora, noi non siamo molto vicini alle istituzioni, siamo un comitato popolare auto-organizzato, e comunque le istituzioni facciano il loro lavoro, noi facciamo un altro, e senza per forza dover entrare in conflitto comunque e nemmeno lavorare. C'è un dato mio riguardo zone, il gioco del ricatto sia anche molto più facile. Tenendo conto di questo, oggi ad esempio abbiamo, c'erano qua anche i compagni di Monticello Amiata, della Amiata, insomma, che stanno contrastando. Montelabro è la montagna sacra, Montelabro è il monte di David Lazzaretti, il santone anarchico della Amiata, no? E quindi anche, è anche un luogo di un certo tipo, è un parco naturale, è un luogo che comunque viene vissuto dalla gente dei paesi in maniera emotivamente molto forte, no? Ecco, a Cinigiano, che poi è il comune che comprende quella zona lì, l'amministrazione comunale invece è ferramente contraria e anzi molto attiva e vicina al comitato nel portare avanti la vertenza contro la centrale. Quindi non è detto sempre così. Quello che noi vogliamo fare, è rivitalizzare il territorio. Un po' quello che dicevo prima, non abbiamo bisogno dei vostri soldi per vivere, nel senso abbiamo bisogno di rivitalizzare il territorio, farlo vivere con le iniziative di chi ci vive, di chi riesce anche a far tornare persone che non hanno avuto la possibilità di rimanerci, e probabilmente anche supportare le amministrazioni che magari sono indecise, no? Sono indecise su questo. Che poi serve davvero anche a togliersi dalla ricattabilità che hai nel momento in cui effettivamente non esiste altro tranne ciò che è in grado di muovere l'Enel. Ieri parlavano per esempio di come in Basilicata certe gite scolastiche sono organizzate soltanto grazie alla volontà dell'Eni di andarle a fare, grazie a degli accordi regionali che poi permettono l'estrazione del petrolio in Basilicata. Sono sempre le contropartite per cui c'è una facciata pulita come è l'organizzazione del gruppo scout o del festival letterario, e dall'altra parte in cambio di questa briciola ti tolgono i vestiti. Se quindi voler adattarsi da non avere il denaro della multinazionale sfruttatrice significa proprio ripartire, appunto ripartire da uno sviluppo totalmente differente dal basso parlavamo ad esempio con da noi vengono tanti turisti, ad esempio a Pirigliano vengono tanti turisti stranieri, no? E ritornando al discorso che dicevi tu, dice: l'altro giorno siamo andati al mare, abbiamo visto una cosa folle. Ma è possibile che da voi c'è un paese che si chiami come una multinazionale, no? Ed erano passati per Rosignano Solvay, no? Dicendo: ecco, guardate che cos'è Rosignano Solvay, no? Noi lavoriamo molto, anche ci supporta molto il gruppo di medicina democratica, no? Che è nato a Livorno, insomma, attorno, certo, a Rosignano Solvay, no? E gente di là, gente molto brava, medici e compagni proprio di un certo tipo, no? E diciamo proprio questo: a Rosignano tutto è Solvay, la scuola è Solvay, e il centro ricreativo è Solvay, il centro anziani è Solvay, l'asilo è Solvay, la scuola elementare è Solvay, le vie hanno il nome, quindi non c'è via d'uscita, fondamentalmente. Monopolio totale. A parte che a Rosignano Solvay la gente va a fare il bagno e spiagge bianche, ed è convinto. Se uno se ne scorda, vede le spiagge bianche e se lo ricorda. E quella penso che sia la follia maggiore. E l'ultima cosa magari che volevo dire è che anche una nostra difficoltà che noi volevamo condividere con... anche con l'assemblea oggi, è la questione che abbiamo più nemici rispetto agli altri. Uh-huh. Fondamentalmente oramai è quasi diventato un dato, non un luogo comune, però comunque è un dato di fatto che un inceneritore fa male o una centrale nucleare è dannosa, e quindi anche c'è pure una facilità in intraprendere una facilità relativa, ovviamente, sì, sì, un'avvertenza di un certo tipo. Noi per anni abbiamo avuto problematiche a relazionarci con realtà come Legambiente, come il WWF, come realtà istituzionali ambientaliste, ambientaliste istituzionali, mettiamola così, che hanno detto: la geotermia è un'energia rinnovabile, se non vi va bene nemmeno questa, allora a questo punto non vi va bene niente, non vi va bene niente, incontentabili, eh? Allora poi la risposta che noi, insomma, sono da anni noi come comitato, ma ci sono comitati più anziani di noi, che si dà, è quella: beh, innanzitutto rivediamola anche questo modello di sviluppo, per cui sì, ma ci può pure essere che ci sta bene poco se non niente, no? Quindi va bene così, e poi non è rinnovabile. Vi faccio un esempio, poi penso di chiudere perché sto parlando veramente troppo, però... Ma poi sta per iniziare. Sta per iniziare, okay, il proseguo del... vi faccio un esempio: un pozzo geotermico, quando viene trivellato, esaurisce il fluido che c'è dentro, e bisogna sempre costruire un pozzo accanto per continuare a lavorare in una centrale. Ci sono più di 80 pozzi all'Arderello dove è stata fatta questa cosa. Quindi quanta vita hanno? Non, che vita 20 hanno? Anni, fondamentalmente 20 anni. Quindi legalmente, istituzionalmente, non è rinnovabile. Il vento e il sole, quelli sì, sono energie rinnovabili. L'energia rinnovabile è l'energia che sperando che non si spenga da un giorno all'altro il sole, però è l'energia, certo, che è rinnovabile. E il fluido geotermico no. E quindi a macchia d'olio l'impianto si allarga, ed è questo il motivo per cui alziamo la voce molto sul fatto che non li faremo entrare manco una volta, perché se entrano una volta, ovviamente l'80% degli impianti in Italia e degli impianti previsti in Italia stanno fra l'Arderello, già esistenti, la Maremma, zona di Scansano, il Monte Amiata e il quadrante che poi fa parte umbra del lago di Bolsena. Fondamentalmente in quella zona lì ci sono tanti progetti pure lì, e tanti comitati stanno nascendo, anche tanti tentativi di coordinarsi, anche se non è sempre facile. Ci sono dei progetti in Campania, Campi Flegrei, quello che dicevo appunto prima della questione che ha riguardato anche il terremoto di Ischia, ci sono bonifere fondamentalmente dell'ex miniera, e basta. Questa è la parte. C'è in Europa, viene tanto sbandierato ad esempio questo discorso dell'Islanda, sì, no? La geotermia islandese, l'Islanda, sì, manda avanti tutta. L'Islanda ha un territorio completamente diverso. Per raggiungere i fluidi geotermici, cioè, avete presente l'Islanda? L'Islanda è un vulcano attivo, sì, unico, sì, no? Quindi per raggiungere i fluidi geotermici non vai sotto 500 metri, ma te ne basta forse andare sotto 10. Quindi già c'è un tipo di impatto completamente diverso. Viene applicato un tipo di geotermia a bassa entalpia che può diventare anche casalingo, ed è un altro, è una Svizzera a Zurigo, vicino a Basilea, non a Zurigo, vicino a Basilea. C'è stato uno dei più grandi incidenti riguardando le centrali a media entalpia, di una nube appunto che si sprigionò da questa centrale per sfera comunque, quindi anche da lì arriva, arriva questa cosa. Da lì sono state bloccate, e tanti progetti sono stati bloccati proprio dalla popolazione, e quindi c'è una criticità diffusa. Siamo riusciti anche a dimostrare anche in dei territori che già ce l'hanno da tanti anni, come, come il Monte Amiada. Sapete che c'è stato risposto? Magari chiudo con questa tristissima battuta, no? Quando portammo un rapporto, sbattemmo in faccia ad ARPAT, no? Alla, all'azienda regionale per la salute toscana, insomma, il rapporto di mortalità sul Monte Amiata da aumento tumorale epidemiologico, insomma, abbastanza grave, la risposta di ARPAT, un organismo, insomma, l'organismo tutelatore della salute nostra, capito? È l'unico delegato a poter fare analisi dell'acqua e tutto il resto, così disse che tutto ciò era colpa degli stili di vita degli amiatini. Cosa fate sulla mia? Ma quello che mi dico, mangiano plutone. Allora, posso, io posso pure dire una cosa, io potrei pure dire che gli stili di vita in effetti potrebbero anche migliorarsi, però mi dite una cosa. La differenza epidemiologica fra uno che vive a Scanzano, no? O a Montalcino, e uno che vive sul Monte Amiata. Ma pensate che quelli di Scanzano e Montalcino bevono meno e mangiano meno carne, ciao, no? No? Zero, zero, zero, non regge. No, no, molto amara questa risata che ci facciamo. Sì. Molto amara, purtroppo. No, senti, siamo riso pure noi un po'. Senti, lasciaci con i contatti, però, con qualche indirizzo dove poter... Allora, noi abbiamo un blog che però diciamo che aggiorniamo poco, per cui magari sappiamo che è brutta, però insomma lasciamo con una pagina Facebook che si chiama Maremma Attiva, è quella del comitato, nel quale appunto riusciamo a dare abbastanza seguito alle informazioni che riguardano la nostra vertenza in ballo nei nostri territori, ma anche tutte le altre che riguardano le vertenze antigeotermiche. Non so che è lunga Radio Womba. Lunga vita, grazie mille. Attiva, viva. A presto. Grazie mille.